Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Il primo luglio 2016 ha compiuto 100 anni. Beh, un bel traguardo. È una delle più grandi, brave, affascinanti attrici di Hollywood. È considerata l'ultima grande diva di quella Hollywood straordinaria che ormai ovviamente non c'è più. E lei ne è il simbolo indiscusso, un simbolo vivente, quindi ancora più importante. È non solo un simbolo di bellezza delicata, di fascino elegante, di grandi capacità recitative, di interpretazioni degne di due Oscar. Lei è di più, è stata anche una combattente che si è ribellata al sistema delle major, di quelle case cinematografiche che in quegli anni facevano il bello e il cattivo tempo. Insomma, stiamo parlando di una donna straordinaria, una donna che è diventata famosissima in tutto il mondo grazie a un film considerato ancora oggi il più conosciuto, amato da tutti, un film simbolo della sopravvivenza che lei incarna alla perfezione, visto il compleanno centenario. La nostra protagonista di oggi è Olivia de Havilland, la famosissima interprete della delicata ma anche forte e coraggiosa Melania Hamilton di Via col Vento, l'altra protagonista del grande capolavoro della scrittrice Margaret Mitchell, insieme ovviamente a Rossella O'Hara. Ascoltiamo subito cosa Olivia de Havilland dice riguardo al suo personaggio, a Melania, il personaggio al quale lei deve tutta la sua notorietà. Melania was someone different. Melania era un personaggio diverso. Aveva delle qualità femminili molto profonde. Rossella era un personaggio molto concentrato su se stesso. Doveva esserlo. Le donne in carriera devono essere così. Ma invece Melania era concentrata sugli altri e aveva queste qualità femminili che io sentivo molto in pericolo in quegli anni e lo sono di generazione in generazione e vanno tenute in vita in qualche maniera. Il mio modo per contribuire a tenerle in vita era di interpretare Melania. Contribute to their being kept alive was to play Melania. Beh, avete sentito che timbro di voce che ha Olivia, una voce calda e profonda. Abbiamo dovuto prendere una doppiatrice apposta, insomma una voce fuori dal comune sulla quale lei ha lavorato molto nel corso della sua carriera, dando vita a dei personaggi particolari, a donne diverse da quelle normalmente interpretate dalle dive di Hollywood. È una sua caratteristica quella di avere fatto personaggi un po' alternativi a quelli tradizionali. Vedremo che i grandi riconoscimenti che le sono stati tributati hanno puntato proprio su questo, su queste sue particolarità. Lei è stata una diva assolutamente unica. Olivia de Havilland non ha un'infanzia tranquilla. Nasce il primo luglio 1916 a Tokyo, così come sua sorella Joan, minore di un anno. E lei diventerà anche lei una grandissima attrice con un nome d'arte, Joan Fontaine. Il padre, Walter Augustus de Havilland, è un noto avvocato inglese, è specializzato in brevetti internazionali, ha uno studio lì in Giappone. La madre è un'attrice nota con il nome d'arte di Lillian Fontaine. Quando Olivia ha 3 anni, il padre si innamora perdutamente di una ragazza giapponese per la quale lascia la moglie. E Lillian a quel punto chiede il divorzio, si stabilisce negli Stati Uniti a Saratoga, nella contea di Santa Clara, in California. Olivia e John sono traumatizzate dal divorzio dei genitori, si sfogano l'una contro l'altra, due sorelle che non vanno d'accordo e il loro iniziale fastidio diventerà un vero e proprio odio, e ne parleremo molto nel corso di questa ora, perché è un odio che è destinato a alimentarsi anche e soprattutto forse a causa della rivalità professionale tra le due, crescerà nel corso delle loro straordinarie e lunghissime vite. Queste due ragazze litigano per i vestiti, per i giochi, per le amicizie, si fanno del male fisico. Olivia rompe una clavicola di Joan. La cosa forse non è intenzionale, ma di certo non le dispiace. Questo fatto fa prendere una decisione ai genitori: è meglio dividerle. Per un po' Joan andrà a stare a Tokyo dal padre. È il 32, Olivia, sedicenne, liberata dalla ingombrante presenza della sorella, si dedica alla passione più grande, cioè a recitare. Segue le orme materne. Naturalmente è molto bella, è dotata di un'eleganza innata, di un fascino delicato, insomma ha un fisico che non fa sospettare il carattere aggressivo che ha, al punto che la sua prima interpretazione, insomma, è un personaggio delicato, Alice nel Paese delle Meraviglie. Due anni dopo approda al cinema, siamo nel 35, viene scelta da Max Reinhardt, il grande regista austriaco, come protagonista della commedia shakespeariana Sogno di una notte di mezz'estate. E, insomma, è il debutto cinematografico di Olivia de Havilland, destinata a una carriera lunghissima e di enorme successo. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1935, Olivia de Havilland ha solo 19 anni ma ha già conquistato il pubblico, perché è giovane, bella, è fresca, è dolcissima e nessuno sospetta che invece è anche e soprattutto una ragazza molto determinata. La Warner Bros. La mette sotto contratto e decide di affiancarla a un attore che in quegli anni è una vera e propria star, è amato dalle donne di tutto il mondo, un sex symbol, idolo delle platee per un'aria spavalda, per i suoi duelli spettacolari acrobatici. Lui è Errol Flynn e con lui lei recita in tre pellicole avventurose: Captain Blood del 35, La carica dei 600 del 36 e La leggenda di Robin Hood del 38. Sai che sei uno sfacciato? Io? Tu. E quando il mio vero sovrano, Re Riccardo, scoprirà quante pazzie abbiamo fatto? Allora ci proteggerà. Lo so, e ci ringrazierà della nostra fedeltà. E sarai anche tu un soldato, mia audacissima bellezza. Non sono audace. Allora sei bella. Questo sì. Sei bella e basta. Sei la più bella. E te ne vai via subito. Ti prego, tesoro, qui ogni minuto è un nuovo pericolo. Sì. Vado. Sono film di capo e spada, un genere che in quegli anni aveva molto successo, dove c'è un bello che sa appunto tirare di spada, del quale tutte le donne si innamorano, poi c'è una storia d'amore travagliata che poi termina con un lieto fine, ma in questo caso al soggetto del film fa, come dire, da contraltare la vita reale, perché Errol Flynn è veramente un uomo dal fascino irresistibile, così Olivia de Havilland se ne innamora sul serio. Ascoltate il racconto dell'attrice che ci confessa la sua passione molti, ma molti anni dopo. I was called for a test simply. Fui chiamata per un provino. Era più un test per vedere semplicemente come stavamo insieme noi due, vestiti con i costumi del film. Arrivai sul set e il regista mi disse: per favore, può mettersi a fianco di Mr. Flynn? Io lo vidi e... oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Ne fui fulminata. Mi capitò quello che i francesi chiamano un colpo di fulmine. Mi misi in posizione vicino a lui, molto formale perché non ci eravamo mai incontrati. Eravamo in piedi lì, uno a fianco all'altra. And we just stood there next to each other. Oh. E nonostante gli anni passati, nonostante questa sia un'intervista fatta ormai a almeno 80 anni, nel suo racconto del primo incontro con Errol Flynn si avverte ancora un certo trasporto passionale, perché lei si innamora perdutamente di lui, ma è un amore impossibile perché lui ha un'immagine pubblica da difendere, deve fare l'uomo sposato che è. Comunque qualcosa succede sicuramente tra di loro, per esempio sul set dell'ultimo film, La leggenda di Robin Hood. Lei però non ne parla mai apertamente e men che meno lo fa lui, Errol Flynn. E arriviamo al 1939, l'anno della grande svolta, del colpo d'ala nella carriera, nella vita della nostra protagonista, perché lei, Olivia, viene, come si faceva a quei tempi, momentaneamente prestata dalla Warner alla Metro-Goldwyn-Mayer, che deve realizzare questo film, il film del secolo, un colossal destinato a essere considerato in tutto il mondo il film più bello, più visto, più amato da intere generazioni. Stiamo parlando ovviamente di Via col Vento. In Via col Vento Olivia De Havilland interpreta, lo sappiamo, Melania Hamilton, dolce ma coraggiosa eroina positiva, protagonista femminile insieme alla straordinaria figura di Rossella O'Hara, interpretata dalla grande Vivien Leigh, a cui abbiamo già dedicato una puntata. Ascoltate cosa dice Olivia De Havilland a proposito di Vivien Leigh. Vivien was just a marvel. Vivien era semplicemente una meraviglia. Grandissima lavoratrice, fantastica professionista. Una meraviglia. Tra una scena e l'altra, lei aveva questa capacità. Trovava un posto tranquillo sul set e lei e Clark Gable giocavano a battaglia navale. Qualche volta mi invitavano a giocare con loro. Io giocavo, ma quando arrivava l'aiuto regista e ci avvisava che da lì a, che so, 10 minuti avremmo girato, io mi scusavo, dovevo tornare al mio camerino, non solo per controllare il trucco, ma per cercare di ricatturare il mio personaggio di Melania. Mi serviva quel tempo. Vivien no. Lei si alzava dalla battaglia navale, andava diretta sulla scena e recitava in maniera brillantissima. Go straight into the scene and play it brilliantly. Certo, fa strano pensare a Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia De Havilland che stanno giocando, che si dicono acqua colpito, affondato, è una dimensione umana particolare, insomma questo è il bello del cinema. Comunque è interessante quello che dice la De Havilland per capire il diverso stile tra le due attrici. Olivia sembra seguire di più, diciamo, il metodo Stanislavski, quello per il quale l'attore deve immedesimarsi nel ruolo attraverso una sorta di meditazione. Beh, il risultato è straordinario con entrambi i metodi, quella che si concentra e quella che gioca a battaglia navale. Ascoltate questa scena, forse una delle più drammatiche del film, in cui Ashley, il marito di Melania, è stato ferito durante un conflitto a fuoco e lei lo salva dall'arresto facendo credere a tutti che il marito fosse ubriaco. So you've got my husband intoxicated again, Captain Butler. Well, bring him in. I'm sorry, Mrs. Wilkes, your husband's under arrest. If you arrest all the men who get intoxicated in Atlanta, you must have a good many Yankees in jail, Captain. Well, I bring him in, Captain Butler, if you can walk yourself. Non vi abbiamo fatto sentire la versione doppiata perché è importante ascoltare la recitazione originale di Olivia De Havilland, la sua capacità di modulare la voce, di renderla più dolce, poi più dura, più tagliente. Era veramente brava in questo. Lei non vince l'Oscar, viene nominata ma non vince, e il film, come sappiamo, si aggiudica 10 Oscar, ma comunque Via col Vento rappresenta il fulcro della carriera meravigliosa di Olivia De Havilland, carriera che sarà ricca di altri riconoscimenti e di interpretazioni magistrali. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è una vera e propria leggenda, una delle stelle più fulgide di Hollywood, è Olivia De Havilland, una delle grandi dive dello star system americano, dotata di un fascino elegante, di una bellezza delicata che poi contrastava invece con la sua forza, con la sua determinazione. Lei è passata alla storia per la sua interpretazione della dolce e coraggiosa Melania Hamilton di Via col Vento, il film più visto e amato di tutti i tempi. E nell'89 il People's Choice Award, il premio statunitense, quello a suffragio popolare, premia Via col Vento come il miglior film di sempre. È stata proprio lei, Olivia De Havilland, a ritirarlo, anche in quanto unica sopravvissuta di tutto il cast. Per ironia della sorte, lei era l'unica che moriva nel film. Vedi che le gufate sono pericolose nella vita reale, proprio quella che muore sopravvive a tutti. Beh, comunque lei in quell'occasione fa un discorso commovente. On the set of Gone with the Wind. Sul set di Via col Vento sentivo che questo film aveva un destino speciale, ma mai Nemmeno nei miei sogni più segreti avrei pensato che mezzo secolo dopo sarebbe stato ancora guardato e amato, e che voi lo avreste scelto come il vostro film preferito di tutti i tempi. Se potessero essere qui con noi questa sera, questo significherebbe tantissimo per Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard e Hattie McDaniel, e per tutti gli altri che hanno contribuito a trasformare la meravigliosa storia di Margaret Mitchell in un film leggendario. Da parte di tutti noi, grazie. Thank you. Quando lei interpreta Melania Hamilton, ha solo 22 anni e questa partecipazione potrebbe essere considerata un punto d'arrivo e comunque uno scoglio difficile da superare, perché dopo che partecipi a un colossal di quel calibro, insomma, è difficile ricostruire una carriera. Per un certo verso è così, perché lei comunque resterà per sempre legata e sarà Melania per tutta la vita, però per lei non è esattamente così. Da questo momento, infatti, lei ha una presa di coscienza di se stessa, sia come donna che come attrice, una presa di coscienza che la porterà a compiere azioni molto importanti nel mondo del cinema. Perché in quegli anni, come tutti i suoi colleghi, Olivia de Havilland è legata da un contratto molto rigido alla sua casa cinematografica, che è la Warner, ma questo vale per tutte le major. Gli attori vengono blindati con rapporti contrattuali capestro, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo delle interpretazioni. Quindi quando un attore ha un determinato cliché, non so, il Latin Lover o la seduttrice o il caratterista o il cattivo, rimane chiuso in quel genere magari per tutta la carriera. E poi c'è un altro problema, che se l'attore che è sotto contratto a una certa paga ha grande successo, arricchisce solo i produttori, perché lui ormai ha firmato un contratto magari per anni a quel cachet. E poi se per esempio l'attore si sposa o ha una gravidanza, l'attrice, o fa un lungo viaggio, insomma entra in una zona franca, in un limbo che si chiama sospensione, il contratto viene congelato, viene ripreso al suo rientro. Beh, ovviamente sono contratti totalmente vantaggiosi per l'imprenditore e svantaggiosi per l'attore. Nessuno si ribella mai, nessuno, tranne lei, Olivia de Havilland. There was a California law. C'era una legge californiana che limitava il diritto di un datore di lavoro a tenere sotto contratto un dipendente per più di 7 anni con le stesse clausole. Nessun attore aveva mai osato avvantaggiarsi di questa legge chiedendo di essere liberato dal contratto, vale a dire un'interpretazione della legge applicata al contratto di un attore. An interpretation of the law as it applied to an actor's contract. E così la nostra eroina decide di avvalersi della legge californiana, anche perché nel frattempo le vengono proposti dei ruoli che non le piacciono, che lei definisce melensi e poco consoni alla sua personalità. Lei si sente pronta per interpretazioni più forti. L'attrice chiede alla Warner di rinegoziare il suo contratto oppure di essere liberata. Ottiene un rifiuto, siamo nel 40, e per 3 anni lei lotta e ne ricava solo la messa all'indice. Così lei fa causa alla Warner, una causa milionaria che produrrà effetti dirompenti in tutta l'industria cinematografica hollywoodiana. È un po' come la sentenza Bosman nel calcio. Insomma, lei questa causa la vince non solo per se stessa, la vince per esempio per gli attori che sono stati in guerra, perché ricordiamoci che siamo negli anni della Seconda Guerra Mondiale. One of the nice things I thought was if I do win. Una delle cose piacevoli che pensavo era: se dovessi vincere, altri attori che si sentono frustrati come mi sento io non dovranno più subire tutto questo, e soprattutto non dovranno più subire la sospensione che li obbliga a restare sotto contratto tutto il tempo in cui sono stati assenti. I nostri ragazzi, i nostri attori, sono stati straordinari durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono andati tutti: Jimmy Stewart, Clark Gable, Tyrone Power. Tutto il tempo che erano in guerra erano in sospensione. Quando sono tornati, hanno dovuto stare sotto contratto per il tempo equivalente. Significa che questi attori rientrati dalla guerra hanno dovuto riprendere alla stessa paga, mentre nel frattempo erano diventati più famosi invece percepivano lo stesso salario di 5 anni prima. Grazie alla mia vittoria, tutti quei ragazzi, quegli eroi, quegli splendidi giovani uomini poterono negoziare nuovi contratti. Brave, splendid young men were able to negotiate new contracts. Beh, avete capito chi era la dolce e remissiva Melania. Stiamo parlando di Olivia de Havilland, che non è solo una grande attrice, ma una donna che unisce alla sua bellezza e alla sua eleganza una sorta di pragmatismo aggressivo e determinato che fa sì che lei riesca a liberare se stessa e i suoi colleghi da uno sfruttamento notevole. E così come per la sentenza Bosman, oggi il precedente giudiziario viene citato e si chiama The Havilland Decision, proprio in suo onore. Così lei adesso è libera di scegliersi i ruoli e nel 1946 Olivia de Havilland è nel cast del film Lo specchio oscuro di Robert Siodmak, dove finalmente dimostra la sua attitudine per i ruoli drammatici. Poi può dare via libera a tutta la sua personalità con un film che si chiama Ciascuno il suo destino di Mitchell Leisen, un film del 1946 che le consente finalmente di portarsi a casa la mitica statuetta. Vince l'Oscar e lo rivince nel 1949 per quella che forse è considerata la sua interpretazione più bella, L'ereditiera di William Wyler, a fianco di un grande Montgomery Clift. Lei interpreta il difficile ruolo di una timida ereditiera corteggiata da un approfittatore, da un mascalzone, insomma, e per questa interpretazione lei vince ancora una volta l'Oscar. Il vostro premio per A ciascuno il suo lo avevo considerato un incentivo a migliorarmi e andare avanti. Grazie per la vostra generosa dimostrazione che non ho fallito in questo. Olivia de Havilland ha recitato con tutti i più grandi attori, con le grandi attrici dell'epoca d'oro di Hollywood, ha recitato più volte per esempio con la grandissima Betty Davis, hanno fatto 4 film, una collaborazione che si è trasformata in una grande amicizia. E il 4º film che non viene citato è il thriller del 64 Piano Piano Dolce Carlotta, nel quale entrambe si superano, Betty Davis regalando un'interpretazione straordinaria di questa Carlotta vicina alla follia, e Olivia de Havilland nei panni della terribile cugina Miriam. Le male lingue di Hollywood hanno sempre detto che Olivia de Havilland era brava a fare i ruoli della cattiva perché nella vita un po' perfida lo era, e si riferivano in particolare al terribile rapporto che c'era tra lei e la sorella Joan Fontaine. Vi ricordate le 2 sorelle che si odiavano, che vengono separate quando erano ancora adolescenti? E anche la sorella fa fortuna perché anche lei bella e brava, un buon successo fino al 40, quando Alfred Hitchcock la sceglie per il suo esordio hollywoodiano. Il film è il celeberrimo Rebecca, la prima moglie. Joan ottiene una nomination all'Oscar, un successo straordinario, e quindi immaginate la rivalità che c'era già da adolescenti a che livelli arriva adesso. E l'anno dopo il punto di rottura è quando Joan viene scelta ancora da Hitchcock nel ruolo di protagonista del film Il sospetto con Cary Grant, e rivela ancora la sua bravura, al punto che le 2 sorelle si trovano a concorrere entrambe alla cerimonia degli Oscar del 43. Ovviamente non si rivolgono la parola, e John è lì per Il sospetto e Olivia per La porta d'oro, e l'Oscar se lo porta a casa Joan. Il rapporto viene definitivamente chiuso fino al 75. Non le ho parlato al funerale di nostra madre. L'ultima volta fu la telefonata precedente, quando lei pretendeva di far operare la mamma a 88 anni. Io avevo preparato mia madre alla morte parlandole per mesi, e invece lei voleva che l'aprissero e la esplorassero. Quando è morta, Olivia mi ha mandato un telegramma, ma io ero in tour e mi è stato recapitato solo 2 settimane dopo. Lei non si preoccupò nemmeno di trovarmi o di telefonarmi. E dopo questa breve parentesi, le due sorelle non si parleranno mai più. Joan è morta il 15 dicembre del 2013, 96 anni, mentre Olivia, come abbiamo detto, è tuttora in vita, ha compiuto 100 anni il 1 luglio nella sua lunga esistenza, si è sposata 2 volte con uno scrittore, poi con un giornalista, ha avuto 2 figli, un maschio e una femmina. Ha proseguito nella sua strabiliante carriera, si è ritirata negli anni 80, ma ha continuato a partecipare alla vita del cinema, per esempio come giurata degli Oscar, presiedendo di tanto in tanto alle premiazioni, mostrandosi sempre in tutta la sua intramontabile eleganza. Ci sono persone che nella loro vita hanno dato un colpo d'ala e poi ci sono persone che grazie a questo colpo d'ala hanno saputo volare in alto comunque sempre e magari a lungo, come nel caso della nostra protagonista Olivia de Havilland, che continua a volare tranquilla. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche salire molto in alto, come il falco, come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, oppure scrivete al nostro sito, oppure venite a cercarmi sui nostri social. Insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani.